Radio 24. Libera la voglia di fare. Melog. Cronache meridiane. Di Gianluca Nicoletti. Oggi Gianluca Nicoletti non può parlare. Un edema alle corde vocali lo rende inabile alla conduzione in diretta. Gianluca ha incaricato me, la sua antica voce sintetica di tanti anni fa alla radio, di comunicarvi questo evento. Tornerà a parlare con la sua voce lunedì. Buon ascolto. Emily? Sì. La vicenda che ha vissuto Nicole Thorpe, 27enne inglese, è andata più o meno così, come sul set del Diavolo Veste Prada. Assunta da una grande società di revisione e consulenza aziendale da 35 miliardi di dollari all'anno di fatturato, il primo giorno di lavoro si è sentita chiedere di sostituire le proprie scarpe basse con un paio col tacco alto da 5 a 10 centimetri. And you're conflicted because I had rent to pay. Mi sono trovata a dover scegliere tra i conti da pagare e la mia integrità, vittima di una scelta sessista e discriminante, racconta Nicole, con la rabbia di chi si è visto ridere in faccia alla domanda se anche per gli uomini ci fossero in azienda richieste simili. Non solo, al suo rifiuto di cambiarsi riceve in cambio una lettera di licenziamento e inizia così una battaglia online che la porta a promuovere una petizione al governo inglese chiamando a raccolta il mondo della rete con l'hashtag My Heels, My Choice, i miei tacchi, una mia scelta. Chiedo che diventi illegale che questo è il punto di partenza. Questa ragazza inglese, in una grande società che si occupa di finanza, il primo giorno di lavoro va tranquilla con le scarpe normalmente mette, con cui lei sta più comode. Probabilmente saranno state le tipiche scarpe acciacca rapamento, ma questo non c'entra nulla, fa bene, perché deve mettere delle scarpe che sono dei simboli di richiamo sessuale? E gli è stato detto che in realtà il dress code di quell'importante agenzia che si occupa di finanza inglese era che le donne avessero i tacchi alti, non altissimi, se da 5-10 centimetri è una cosa media oggi, tacco si intende tale, 12 centimetri in su. Questo però mi fa riflettere. In realtà noi viviamo comunque una sorta di obbligo quotidiano di dover assumere certi comportamenti esteriori, ma ancora meglio, di indossare alcuni paramenti sacri, come se noi avessimo ancora degli obblighi liturgici nel rapportarsi con le altre persone. Per le donne può essere il tacco alto. Ho amiche che non vanno in ufficio se non hanno il tacco alto. Si fanno prendere gli scompensi, gli attacchi d'ansia. Magari si fanno, hanno dei piedi orrendi, distrutti dalle cipolle, dalle deformazioni. Ho parlato una volta con un podologo, mi ha detto la fortuna della nostra professione è che le donne oggi mettono i tacchi alti. Ci sono dei bordelli talmente evidenti nei loro piedi che noi andremo avanti ancora per generazione e generazione a mettergli da posto. Ma vale anche per noi uomini. Io ieri devo andare in un importante luogo istituzionale, dove se non hai la cravatta non ti fanno entrare. È vero, sì, anche la giacca naturalmente, hanno delle giaccacce puzzolenti che ti danno, te la metti di 6 taglie superiori e ti danno anche degli strangolini di cravatta se proprio vai in camicia, se non tolleri queste cose. Ma io mi sono reso conto che mi portavo in tasca una cravatta, la mia tipica cravatta da luoghi istituzionali, non la metto mai, figurami, sono anni che non metto cravatta, c'è una cravattuccia acciaccata e schifosa che me la infilo sempre in tasca, se lo lì me la annodo anche se c'è una camicia a fiori hawaiana, basta che ci sia il simbolo. Ecco, siete convinti che debbano esserci ancora questi sorta di riconoscimenti di status, questi lascia passare comunque alla dignità di certi luoghi, di certe persone? 800 24 00 24. Da oggi vorrei lanciare una battaglia contro i tacchi alti e contro la cravatta. Ogni giorno milioni di tonnellate di merci viaggiano nel nostro paese. Ovunque, dai porti alle industrie, fino alle nostre case. Noi vi raccontiamo questo mondo in perenne movimento con uno sguardo rivolto all'intera filiera dei trasporti, via terra e via mare. Una mobilità avviata sulla strada dell'intermodalità e quindi del rispetto dell'ambiente. Su Radio 24, lunedì alle 13.45, hashtag Autotrasporti con Andrea Ferro. Sabato alle 13.15, Container con Massimo De Donato. Melog. Cronache meridiane. Molti pensano che un DJ non abbia bisogno di cravatte, e invece una cravatta ben annodata è il primo passo serio nella vita. La prima cosa è portare all'altezza giusta la parte stretta della cravatta. Circa due dita sotto al taschino, poi dipende dalla cravatta, dall'altezza della persona, anche dalle dita. Per prima cosa incrociate la parte larga della cravatta sopra quella stretta. Poi fatela passare dietro. Ora riportatela davanti, da sopra, così. Ora di nuovo dietro e poi dal basso verso l'alto in avanti fra i due lembi. Adesso è il momento di afferrare la punta della cravatta e farla passare all'interno. Adesso il nodo è quasi fatto. Dovete solo stringerlo delicatamente con piccoli colpetti e poi portarlo sino all'altezza del collo. Vi dirò soprattutto le cose da non fare. Olè! Sui tacchi non si marcia, cioè non va posato il piede in questo modo. Tac! Non siamo nell'esercito, ma bisognerebbe camminare come con qualsiasi altra scarpa più o meno, facendo tacco, punta. Perché l'impressione che dobbiamo dare all'esterno è quasi quella di non star camminando sui tacchi. Dobbiamo essere così leggere, leggere da sembrare delle farfalline sui prati. Mentre in realtà stiamo dicendo tutte le parolacce che conosciamo, perché magari stiamo in piedi da ore, stiamo camminando, la strada c'ha i fossi, non c'è una panchina. Quindi, tolta la teoria... Ecco, questi sono i cosiddetti tutorial su YouTube che danno istruzioni su come vestire alcuni accessori che in realtà non hanno nessuna ragione di esistere se non una sorta di convenzione. La cravatta per l'uomo. Vi siete mai chiesti perché dobbiamo stringerci un laccio al collo quando in realtà è totalmente inutile? Ma perché è bella, perché è raffinata, è simbolo comunque di defezione, cioè di deferenza nei confronti della persona a cui ci si rivolge. Si va in un luogo istituzionale, si va di fronte a una persona importante, uno deve mettersi la cravatta. Ti sei messo la cravatta, perché bisogna mettersi la cravatta? È scandaloso far vedere il pomo d'Adamo per un uomo, emerge del pelo toracico e quindi questo è brutto, ma potrebbe allacciarsi la camicia, vuol dire ma che brutto, ci serve la cravatta. Io comincio a pensare che la cravatta sia totalmente inutile, non so, è qualcosa che ormai appartiene al passato, è un orpello da cui ci dobbiamo liberare, eppure c'è l'obbligo di cravatta. Provate a entrare voi in un luogo dove sono rappresentate il sommo delle istituzioni senza cravatta, vi daranno tutto al più una cravattaccia unta che hanno messo già 100 persone pur di non farvi entrare senza cravatta. Non importa se sia marrone e avete una camicia viola, non importa se sia giallina con le impronte sopra, non importa, l'importante è che abbia la cravatta. La stessa cosa vale per i tacchi. Una donna per essere elegante si mette i tacchi. Il tacco è chiaro, il tacco ha una capacità di dare alla donna quel passo ondeggiante che l'uomo in qualche maniera suscita delle sensazioni. Il tacco in realtà altro non è che il residuo della catena, dell'anello, della deformazione dei piedi, delle palle al piede. Il tacco serve perché la donna non scappi, perché la donna abbia un passo rallentato, perché la donna sia afferrabile dall'uomo, perché la donna mostri le sue terga in maniera invitante. C'è tutto dietro un'idea di schiavitù totale, eppure anche le donne più illuminate si mettono dei tacchi fantastici perché pensano che quello comunque sia un obbligo per essere all'altezza di una situazione. Anche la giornalista che fa un'intervista entra nello studio con dei tacchi stratosferici. Non sono richiesti, non deve sedurre nessuno, eppure senza tacco probabilmente si sente non all'altezza. Ecco, sono arrivate tantissime telefonate. Stefano, buongiorno. Provincia buongiorno Alessandra. A tutti. Io volevo solo ringraziare ufficialmente Marchionne perché ha sdoganato, diciamo, un po' una situazione... Ha messo il maglioncino blu. Bravissimo, questa è una liberazione per me in passato. Beh, io ho lavorato in banca, poi io adesso lavoro per multinazionali, faccio un altro tipo di lavoro, mi porta a essere a contatto con la gente, ma vedo che comunque per fortuna sta sempre venendo meno l'obbligo morale, perché nessuno l'ha scritto da nessuna parte, di portare giacca e cravatta. E quindi... Ecco, nelle multinazionali esiste ancora questa regola non scritta che senza cravatta non si va alle riunioni, non si va dagli amministratori delegati, non si fanno le cose importanti? Random sì, però io lavoro per una multinazionale americana dove sono molto free, nel senso che, tanto per far capire il contesto, vai a giocare a tennis, non so, col presidente, poi siamo magari a 20 livelli in più, e c'è le formalità vengono lentamente messe da parte, si assume, diciamo, tutto un tono molto più pratico, perché poi alla fine la cravatta la si porta in un ambito istituzionale, sì, alle cerimonie ovviamente. Sì, ma lei non è d'accordo che per noi equivale, non so, al burk o al turbante? a degli elementi rituali che si mettono perché una religione obbliga questo. Pieno rispetto per le religioni, ma a noi chi ci obbliga a mettere la cravatta? Non c'è nessun padre eterno che ci dà questo tipo di obbligo, ammesso che qualcuno creda che esistano padri eterni che ci possono dare obblighi. Ecco, ma ritorno al motivo del mio ringraziamento, così questo outing in favore di Marchionne, perché lui è il simbolo dell'uomo o comunque che sul lavoro ha successo, attento sul lavoro professionale, eccetera, ma non porta la cravatta e porta il maglioncino. Quindi sì, non però è Stefano, che... mi di atto, se uno si mette il maglioncino blu, fa esattamente quello che facevano i quattoni negli anni Ottanta, che mettevano l'orologio sopra il polsino per imitare Agnelli. Diventi il Marchionne dei poveri, uno si deve inventare qualcos'altro. Ok, no, allora nel suo caso è il maglione, nel mio invece, non so, è il non portare la cravatta e magari porto un giacchettino magari più sportivo senza cravatta, quindi lui, quello che volevo dire, che ha rotto... Non la camicina, diciamo... col collo coreano, spero. No, ancora lì no, però comunque poi ci sono anche gli eccessi, perché comunque diciamo tutta la deriva del non portare cravatta è aperto, è come una porta che è aperto su un mondo del liberi tutto dell'abbigliamento. Quindi perfetto, no più alle... fermo lì, basta. Gino da Roma, 800240024, come vi comportate voi di fronte all'obbligo di mettervi la cravatta o di salire sopra dei tacchi? Gino, buongiorno. Buongiorno, dunque la mia posizione diciamo è esattamente l'opposto, per me servono delle regole, io sono dalla parte di Armani, altrimenti ci ritroveremo in riunione della gente in canottiera, palestrati, bermuda, infradito. Lei ha toccato l'estremo, il quattume più becero, l'infradito fa schifo perché il piede nudo non ha senso, la canottiera fa schifo perché l'ascella non ha senso, il pantaloncino corto fa schifo in certe occasioni perché uno non è obbligato a vedersi i peli dei polpacci o i polpacci spelacchiati degli altri, ma nella decenza della banale copertura delle zone traspiranti del nostro corpo e di una certa grazia nel porsi agli altri in maniera gradevole, perché essere trascurati o volutamente sciatti è un'altra forma inaccettabile, ma io parlo proprio di due cose ben precise. Perché la cravatta? Dico elegante, quanto vuoi, vestiti bene, sei mal vestito, fai una figuraccia, perché devo strozzarmi il collo? Questa è la domanda che faccio io. Chiamano soltanto uomini? No, ecco una donna, Arianna, finalmente, passiamo ai tacchi. Buongiorno, Arianna. Pronto, mi sente? Parliamo di tacchi, mi interessa, è un punto di vista che poco conosco, ma lei può illuminarmi. Perché siete obbligate a mettervi i tacchi? No, io non le parlo di tacchi, mi sta sentendo? Sono in linea? Sì, voglio sentire, no, invece mi deve parlare di tacchi. Io non li porto, sono alta 1,75 e fortunatamente non ne ho bisogno e non riuscirei a muovermi. Che mestiere fa? Sono un avvocato. Io sfido a trovare un'avvocatessa romana nell'esercizio della sua funzione che non ci abbia il tacco 12, la sfido. In effetti ce ne sono molte, io ho visto delle colleghe di una capacità notevole vestite in maniera... pietosa, ma questo non è importante. Io voglio dire che ci sono delle situazioni in cui una regola, un dress code, per noi è la toga. Il processo penale è un rito, è quasi religioso, Arianna, scusi, qui non stiamo generalizzando. Voi fate una professione che implica in sé una sua liturgia, che ha anche degli aspetti formali, e mi piace che rimangano gli aspetti formali. Per quel momento lei è in un'aula di tribunale, è in un luogo straordinario, fuori dall'ordinario, ma la cravatta, l'uomo comune, perché deve mettere la cravatta? Non è che officia o partecipa a nessun atto importante. La cravatta trovo che sia semplicemente un equivalente di un orpello di vestiario che non appartiene più alla contemporaneità, questo penso io. Idem per il tacco alto, piacere o non piacere, perché non viene considerata una persona all'altezza della situazione su una cravatta o su un attacco da donna? Questa è la domanda che faccio io. Massimo da Pescara, buongiorno. Buongiorno, l'intervento dell'avvocato prima di me mi dà modo di fare due distinzioni. Nel mondo del lavoro tu non sei un essere umano con un cuore, con delle capacità, con un pensiero, tu sei il tuo lavoro. E questo ti porta ad essere un pochettino alienato, cioè tu sei tutto ciò che è nel lavoro di oggi, di ieri, di domani, cioè nel caso della ragazza che ha fatto il colloquio in quell'azienda commerciale, tu sei un elemento anche di seduzione, di vendita, e quindi devi aderire in qualche modo a quelli che sono i precetti della religione che prevede la seduzione, la vendita a tutti i costi. Il tacco purtroppo fa parte di questo elemento, cioè nel mondo del lavoro non sei in quel tipo di lavoro, non sei altro che il lavoro che viene richiesto. Nel caso dell'avvocato prima di me, devo dire che sì, la distinzione è stata fatta bene, cioè avendo fatto una professione, la professione prevede una certa autonomia, quindi anche una certa discrezionalità nello scegliere cosa mettersi e cosa calzare. Però mi scusi, allora la toga per l'avvocato è come il camice per il medico, l'ogio debba metterlo, è come il paramento per il religioso, per farsi riconoscere quando è nell'esercizio delle sue funzioni, come la divisa per il poliziotto, è altra cosa. Io qui che arrivo, cioè ci deve essere di fondo un rispetto per i luoghi e per i registri, che prevede quindi una certa, come dire, religiosità, un'aderenza, un'adesione, cioè a dei precetti di vestiario, quello sicuramente. In Parlamento non si sognerebbe mai di andare con dei jeans, con una tuta, con un vestito comodo. Su questo siamo d'accordissimo, ma mi fermo proprio sull'oggetto antico, la cravatta, che è un residuo antichissimo, è come mettersi, non lo so, un gonnellino, uno scozzese per ricordare le proprie tradizioni. La cravatta si perde nel tempo. Quali sono i motivi per cui era oggetto di distinzione o di riconoscimento di censo, di appartenenza? Oggi che senso più a mettersi la cravatta? Quando le cravatte le vendono anche nelle bancarelle, le può mettere chiunque. Perché uno straccio al collo mi dà dignità, ammesso che possa essere vestito benissimo, avere una giacca da 3.000 euro, ma se non c'ho la cravatta io non posso entrare in quel certo posto. 800 24 00 24, ci fermiamo un istante. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Usain Bolt. Si mette in scia, attenzione che spinge fino in fondo, ha il record del mondo! Garozzo, eccelle, la stoccata, Daniele Garozzo è campione olimpico. Certe imprese sono possibili solo a Olimpia, la città dello sport. Qui ad Olimpia sono nati i giochi olimpici nell'antichità per onorare Giove. I miti, le verità, le leggende e i segreti dello sport. Sono Dario Ricci e vi aspetta Olimpia, ogni domenica alle 20.30, naturalmente qui, su Radio 24. Cos'è stato? C'è qualcuno? Sono io, Dylan Dog, quel Dylan Dog. E lui è il mio amico Grucio. Ciao, bello. Intenditrice, eh? E dovresti vedermi nudo a cavallo. Impazziresti per il cavallo. Piantala, Grucio, non possiamo. Siamo già in ritardo. Mi aspettano a Radio 24. Che cosa devi fare? Vogliono che racconti le 8 storie più emozionanti dei miei 30 anni di avventure. Ma quando ci risentiamo? Su Radio 24 tutti i sabati alle 15. E quando vuoi, in podcast su radio24.it. Melog, cronache meridiane. Devo solo specificare una cosa, che appunto le due estremità della cravatta vengono chiamate pale, la pala grande e la pala piccola. Passiamo la nostra cravatta attorno al collo, pala grande a destra, pala piccola a sinistra. Adesso sono pronto per il mio appuntamento. Ciao Gaia. Ciao Pier, come va? Bene, tu? Bene. Hai visto? Che cravatta! E che nodo poi! Con un maestro come te? Possiamo andare? Andiamo. Non ho nulla in contrario che non si leghi le pale al collo. Figuriamoci, è una cosa che si può fare benissimo. L'ascoltatore Elio da Bari dice: Nicoletti, mi meraviglio di lei. Una bella cravatta è il completamento di un vestito, non uno straccio comprato su una bancarella. Ma figuriamoci, ma non mi fate così banale, così retrogrado di non capire, non sapere cosa significa vestirsi bene. Ma io voglio avere il piacere e il diritto di mettermi anche il frac, se voglio, e andare a fare la spesa in frac la mattina. Mi sembra un po' arcaico che qualcuno imponga come oggetto liturgico di mettersi una cravatta al collo o infilarsi una giacca. Provate a entrare alla camera senza giacca, i commessi gentilissimi apriranno un armadietto dove saltano le cimici e vi daranno delle giacche da mettervi, che da generazioni si mettono tutti i poveracci che vanno lì sprovveduti senza giacca. Quindi non è importante che sia bella, non devi essere elegante, non devi essere gradevole, devi averci addosso il paramento, giacca e cravatta, serve giacca e cravatta. Mauro da Carrara, buongiorno. Sì, buongiorno. Sì. Cerco di rispondere brevemente alle due questioni che lei ha posto. Inizialmente la ragazza che voleva entrare nella multinazionale, e poi secondariamente lei chiede perché mettersi ancora la cravatta. Allora, la prima dico, se vuoi entrare in un ambiente non sei obbligato e l'ambiente ti chiede un qualche cosa che è comunque, secondo le leggi, non ti chiede niente di fare qualcosa di anormale, sei tu che vuoi entrare, sei tu che ti devi adeguare, primo. Così, questo vale in tutti gli ambienti, che sia un ristorante, che sia una chiesa o che sia anche una nazione. Secondo me chi entra si deve adeguare, non è quello che ospita che deve adeguarsi a quello che entra, primo. Secondo, perché mettersi una cravatta? Bisognerebbe chiederlo ai produttori di miliardi di cravatte all'anno e ai consumatori di cravatte all'anno. Anche qui non è un obbligo, chi lo vuol fare lo fa, chi non lo vuol fare non fa. Si ritorna alla domanda precedente, cioè se entri in un ambiente dove è richiesto, se ci voglio entrare, se lei vende adeguare. Cravatte, solo per sapere, nel settore del cravattificio? No, guardi, io ho lavorato per 20 anni in una multinazionale, ho indossato con piacere, non perché me l'avessero imposto, una cravatta. Adesso negli ultimi miei 20 anni di lavoro lavoro in una mia piccola attività dove sono con la maglietta tutti i giorni e mi va bene così. Allora, però posso se io rispondere? Sono una persona, sì. Se io sono una persona, chiedo a questa persona, prima espongo quali sono le regole del mio ambiente, se gli vanno bene, benissimo. Se non gli vanno bene, sì, va a casa, va bene, siamo d'accordo, perfetto. La domanda che faccio io è di tipo diverso. Capisco che in certi posti siano queste regole, uno può anche non adeguarsi, non è obbligato andare a ascoltare le sedute parlamentari o i lavori in Parlamento, o non è nemmeno adeguato di andare in posti di obbligata cravatta se per lui è un obbligo religioso. La mia domanda è a monte: perché ancora c'è l'obbligo di adottare degli oggetti che hanno un sapore liturgico? Qua non ci stiamo a capire. Lei può avere piacere di mettere la cravatta, io posso avere piacere di mettere la cravatta. Ho messo tantissime volte la cravatta e ogni tanto mi capiterà di rimetterla se mi va di metterla. Non capisco perché appoggiare a un oggetto in sé ormai privato di ogni potenziale mistico. In certi luoghi bisogna mettersi la cravatta, altrettanto non capisco perché la donna venga considerata accettabile se ha dei tacchi, quando il tacco, la cravatta può dare un minimo di fastidio ma è sopportabile, ma il tacco è terrificante. Veder camminare delle professioniste per Roma a fare lo slalom tra i sanpietrini con dei tacchi orribili che fanno un centimetro ogni 10 minuti, ma equivale a vedere le donne con una palla al piede, con una catena. E perché questo non viene considerato? Carlo, buongiorno. Buongiorno, sì. Io chiamo proprio in merito al ruolo che è la cravatta, che secondo me ormai è stato sdoganato quasi ovunque. Per me prima la cravatta era un simbolo, un'etichetta, chi aveva la cravatta era colui che ricopriva un ruolo nell'ambiente sociale, nell'ambito sociale di un certo livello. Oggi ormai la cravatta è puramente un accessorio e come tutti gli accessori, sempre secondo me, sono pericolosi se non si stanno a abbinare nel giusto modo e nel giusto momento. Allora Carlo, fermo un attimo. Carlo, aspetti un attimo, la faccio parlare, però le do un'altra sollecitazione. Lei sta andando esattamente nella mia direzione. Lei sta dicendo oggi se uno volesse, si vuole considerare interprete del senso del suo tempo, non si deve sentire obbligato a mettere la cravatta. Se gli piace la metta, se ne riempa un armadio, un tir di cravatte, ma non può più esistere un obbligo sociale di mettere la cravatta, perché ormai è superato. Quindi la domanda che le rifaccio: se ci si vuole sentire moderno, adeguato ai tempi, deve mettere tacchi e cravatta oppure ribellarsi a questo obbligo? No, ognuno deve essere libero di portarla quando e quindi come non ci deve, quindi non ci deve essere un obbligo, non in ufficio. È un obbligo sdoganato anche. Le faccio un esempio al di là questo del lavoro. Capire, questo volevo capire. Il casinò di Venezia, fino a tanti anni fa, obbligava come abbigliamento formale l'utilizzo della cravatta e della giacca. Nel momento in cui si sono aperte le frontiere, c'è stata la concorrenza al casinò di Venezia verso quegli sloveni piuttosto che croati, ha dovuto rivedere la propria posizione. Quindi cioè restano, è vero, restano i cravattari, ma si tolgono le cravatte, diciamo negli ambienti di casinò. Il cravattario è quello che presta soldi a strozzo, che aleggiano intorno ai casinò, perché normalmente chi perde, se il giocatore accanito, ha bisogno del cravattaro per rientrare. Quindi la cravatta, il simbolo è che nel casinò, che ancora c'è un allure da romantico luogo in cui si consumano perdizioni, hanno dovuto abolire la cravatta, sennò la gente con le ciabatte ai piedi ma con le tasche gonfie di soldi che vengono dai paesi dell'est non sarebbero entrati. Quindi lei ci adegua su questa cosa qua. Marco da Chieti, buongiorno. Sì, buongiorno, mi sente? Sì. Sì, volevo dare un po' la mia testimonianza su questa storia della cravatta. Io sono avvocato e da 5 anni non indosso più la cravatta. Perché? Perché ho pensato che a un certo punto non ci deve essere un simbolo che imponga l'immagine di una persona, ma l'immagine deve essere quella vera della persona, non attraverso appunto questo luogo comune che è la cravatta. Per cui mi sono a un certo punto rifiutato di indossare la cravatta. Ho sentito prima l'intervento della collega che invece parlava della similitudine tra cravatta e toga e penso che la cosa sia diversa. Ma è un'altra cosa, quella è un'altra cosa. La toga è un elemento che in un certo contesto si distingue e comunque ritengo che sotto la toga invece ci sia una sostanza, ci debba essere una sostanza e non un'apparenza. Uno la indossa perché in quel momento c'è una mutazione, non sei più un essere umano qualsiasi, ma sei una persona che sta svolgendo un ruolo molto importante, molto delicato. Ma anche la toga ormai è diventata un orpello, non so come accada dalle sue parti, ma a Roma le affittano gli uscieri, c'è una stanzina con le toghe, gli avvocati raramente se la portano dietro da casa, se ne prendono una in affitto, si mettono quella così, tanto se la appoggiano addosso. L'importante è che sia mantenuto l'aspetto liturgico della funzione. Ma quello che mi domando, e come vedo che molti ascoltatori mi seguono in questa sorta di riflessione che poi porta a una idea laica anche di certi accessori che al di là di quello che noi ogni giorno gli attribuiamo in realtà hanno un profondo significato sacrale, perché l'uomo con la cravatta è un uomo che riveste comunque, che accetta comunque di mettersi un laccio al collo perché rispetta un'autorità, rispetta la sacralità di un luogo e quindi in qualche maniera si sottomette alla sacralità di quel luogo mettendosi un laccio al collo. Idem la donna che mette il tacco, si sottomette a un ruolo che deve avere in quel momento, limitando in qualche maniera la sua possibilità di muoversi. Una donna con i tacchi è una donna che non può correre, non può scappare, non può camminare in certi luoghi, quindi una donna che comunque sacrifica la sua libertà. Sia l'uomo che la donna che mettono cravatta e tacchi accettano che esista un principio superiore in nome del quale devono sacrificare la loro libertà. 800 24 00 24, a tra poco. Melog, cronache meridiane. Eccoci pronti. Collo della camicia sollevato, cravatta appoggiata da parte dove non si vedono le cuciture. Cominciamo con il nodo. Appoggi la pala più grossa sopra la pala più piccola, semplice incrocio. Tieni fermo con un paio di dita. Fai girare la pala grossa. Il nodo doppio è un nodo per cravatta molto popolare che in buona sostanza costituisce la variante di un nodo semplice, in quanto la gamba gira per due volte intorno alla gambetta. Si tratta di un nodo adatto a tutti i tipi di colli e camicie, da prediligere con cravatte di seta o comunque non troppo spesse. A questo punto portate la gamba verso l'alto. Come annodarsi le pale, devo dire che veramente ha del grottesco e un brido mi corre sulla schiena, ma non pensate che sia una sorta troglodita? Io potrei fare il doppio scappino, occhi chiusi, se volete, e so come si porta la cravatta. Solamente cerco di far riflettere le persone sul fatto che c'è un obbligo che ormai non appartiene più in realtà alla contemporaneità. Il mondo è andato avanti. Non è vero se non hai la cravatta, non sei all'altezza della situazione. Nessuno si debba sentire offeso se gli si presenta una persona senza cravatta. Peggio mal vestito, peggio disarmonico nella maniera, nell'abbinamento dei colori, peggio se puzza, se non si lava. In teoria tu puoi puzzare se c'è la cravatta. Puoi sapere di sudaticcio, di schifoso, avere una pelle grassa, essere scarmigliato, essere sgradevole con le unghie nere, ma però se c'è giacca e cravatta puoi entrare. Questa è la cosa assurda. Spostiamo i livelli di attenzione alla gradevolezza su altri piani, ma non sulla cravatta. Mario da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletti. Io da uomo volevo dire una cosa che non è stata detta da nessuno e mi sembra strano. Non riguarda la cravatta, riguarda il tacco. Io credo che la donna metta il tacco per piacere. Non e quello che ho detto all'inizio, il tacco attizza, ma questo è normale. Lo sappiamo però, benissimo. La donna lo mette molto volentieri. Sì, sì, ma perché in un posto di lavoro mette il tacco perché dice se no non sono all'altezza. Se vuol metto, dice mi piace perché voglio essere guardata, mi piace con il tacco mi si evidenziano i polpacci, mi si evidenziano le natiche e sono ammirata, va benissimo, se è una sua scelta, ma no che viene licenziata se non mette i tacchi perché non è all'altezza della situazione. Questo è il punto. Certo che fa piacere alle donne sentirsi ammirate, e mica metto i tacchi perché mi piace a me, perché sono più comoda. Queste sono le banalità che dicono. L'altro giorno ho salvato la caviglia un'amica cara. è caduto, che arrancava in mezzo ai San Pietrini, e dico, ma perché c'è sti tacchi qua? Ma non sono comodi, ci cammino bene. E vi giuro, sembrava poverina, una persona con le ginocchia paralizzate. E evidentemente, chissà quale debito di compiacenza doveva giocarsi nel suo ufficio per quei tacchi che inalberava. Io ricordo, me lo ricorda sadico Fabrizio Intonti, io per circa 10-15 anni della mia vita ho messo i papillon. Ero quello col papillon, erano bei papillon di seta, me li annodavo, cosa rarissima, perché chi porta il papillon di solito li porta già preannodati. No, avevo imparato a fare il nodo al papillon. Quando mi sono reso conto, però, era un indulgere a una quattata che anche Gervaso metteva al papillon, un'infinità di burinume mette il papillon per darsi l'aria da intellettuale, ho buttato via i miei papillon, cioè li tengo in una teca sigillati. Elisa da Monza, buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo dire che praticamente la cravatta è un'eleganza maschile che le trovi negli uffici, nelle riunioni, così, ecco. Poi magari ma lo sai cos'è la cravatta? Perché l'uomo mette la cravatta? La cravatta è un simboleggiare del fallo maschile, è diciamo la metafora del fallo maschile, per questo l'uomo la porta al collo, è come un'ostentazione nella fase più arcaica dell'uso della cravatta, è come mettersi un astuccio penico, è come mettersi delle piume, è la stessa cosa, per questo è un rimasuglio di antiche, va benissimo se io voglio uscire con lei, una persona mi chiede di uscire e voglio essere elegante, mi metto anche una cravatta bellissima, ma non voglio essere obbligato a mettere la cravatta, perché in quel luogo istituzionale se non metti la cravatta non entri. Elisa, continui. Niente, magari oggi, cioè, siccome si cambia tanto in determinati costumi di abbigliamento, e c'è magari il tipo creativo che qualche volta la cravatta si toglie, magari rimane anche, non so, con un vestito un po', diciamo, che mette in mostra la sua mascolinità, ecco, io lo noto questo anche. Poi non so. Quali sono i vestiti che mettono in risalto la mascolinità? I pantaloni attillati, quali sono? Ma sì, anche quello, sì. Se, il pantalone magari elasticizzato? No, troppo, quello non mi piace, ecco. Guardi che molti uomini mettono l'evidenziatore, non si lasci ingannare, o mettono apposta il telefono in tasca per darsi aria. Sono pieni di malizia i maschi e pieni di sotterfugi per millantare ciò che in realtà non hanno. Sentiamo Patrizia da Roma. Patrizia, buongiorno. Patrizia è caduta. Patrizia parla persone non lavate, che lei conosce, persone che non si lavano, che però mettono la cravatta. Esattamente quello che dicevo poc'anzi io. Elisa è ancora in onda? No, nemmeno Elisa in onda. Patrizia non è in onda? Vabbè, me la gioco da solo l'ultimo minuto, è inutile che andare a prendere altre persone. Mi sembra di aver capito che ancora le persone attribuiscono, sì, alla cravatta, al tacco, un valore seduttivo, un valore dignitore sociale, e mi sta benissimo, ripeto, mi piace avere belle cravatte, mi piace mettere belle cravatte, mi piacciono gli uomini ben vestiti e trovo che un vestito elegante abbia il giusto completamento della cravatta. Trovo un po' ridicolo che rimangano, forse, ma sarà una mia deformazione, perché quando mi capita di frequentare professionalmente certi posti ogni volta mi viene da ridere, ci sono dei luoghi che per cui l'accesso obbliga una sorta di paramento liturgico, che in questo caso è la cravatta e per le donne è il tacco. Mi sembra qualcosa che appartenga al passato, qualcosa di non moderno. Non mi sembra moderna la donna che pensa che con i tacchi è più elegante. Mi sembra fantastico che metta dei tacchi per piacere. Idem, l'uomo che si mette la cravatta per essere all'altezza della situazione, trovo che forse una esatta cognizione di come stia oggi girando il mondo. Ma a mio parere, opinabile. Grazie, alla prossima.